in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale che fino a poche settimane fa era esclusivamente europea e questa settimana partiamo proprio dall'Europa perché le elezioni in Francia, il secondo turno delle elezioni presidenziali in Francia, e lo sappiamo ormai tutti, hanno decretato presidente Emmanuel Macron e naturalmente sappiamo che per il sistema elettorale francese il presidente è anche il capo del governo e ora quindi aspettiamo la squadra di governo completa, aspettiamo le amministrative prossime che potrebbero ulteriormente scuotere un po' o rimescolare lo scenario politico, però la vittoria di Macron è una certezza. E allora di commenti ne avrete letti e sentiti tutti tantissimi, mi è sembrato particolarmente interessante quello fatto da Bernard Guetta per France Inter, intitolato Emmanuel Macron dovrà rimettere l'Europa in moto, quindi proprio uno sguardo europeo. In tanti hanno salutato l'elezione di Emmanuel Macron, in tanti fuori dalla Francia, come una cosa positiva per tutta, per l'Europa, e Vox Europe, il sito che sapete vi segnalo sempre, www.voxeurope.eu, pubblica appunto questo articolo e Bernard Guetta scrive: le difficoltà arriveranno e anche le delusioni arriveranno presto e saranno numerose, ma queste elezioni, oltre a darci un nuovo presidente, sono un grande avvenimento per la Francia, l'Europa e il mondo intero. La Francia ha avuto l'audacia di fare una scommessa folle, la Francia che si inabissava nel pessimismo e nella disperazione, la Francia che aveva dimenticato il suo rango di quinta potenza economica del mondo, che non credeva più in se stessa e sembrava non volere altro futuro se non quello della chiusura delle porte e delle finestre. Questa Francia che il mondo stentava a riconoscere ha scelto di eleggere come presidente un giovane di 30 anni fa, di 39 anni, che un anno fa si è messo in testa di ridisegnare lo scacchiere politico nazionale e di assumere il comando del paese, restituendogli coraggio, autostima ed energia con una campagna basata sull'unità europea. Secondo me Bernard Guetta è un po' troppo ottimista, però sicuramente è meglio essere ottimisti che avere qualsiasi altro atteggiamento, visto che appunto in gioco c'è questo grande progetto europeo, di Unione Europea. La Süddeutsche Zeitung invece si è concentrata su una questione che riguarda l'immigrazione, che tra l'altro era stato uno dei temi della campagna elettorale, che aveva visto opposti, molto molto contrastanti le posizioni di Emmanuel Macron e della candidata, l'altra candidata, Marine Le Pen, che comunque, lo ricordiamo, ha sfiorato il 40% dei consensi, quindi comunque il risultato migliore che il suo partito, il Front National, abbia mai ottenuto. In ogni caso, l'immigrazione, la Süddeutsche Zeitung scrive che per la prima volta molti soldati turchi e le loro famiglie hanno ottenuto asilo in Germania. Si tratta di militari della NATO che prima di essere dimessi dall'esercito di Ankara erano stazionati in Germania. Secondo la Süddeutsche Zeitung, che poi è stata ripresa anche da una radio e da due televisioni, il Ministero degli Interni ha confermato che le prime domande presentate da cittadini turchi con il passaporto diplomatico, come prevede il fatto di essere appunto stati parte della NATO, hanno ricevuto risposta positiva. E lo Spiegel, un settimanale tedesco, uno dei due news magazine tedeschi insieme a Stern, scrive che, pensate, complessivamente le richieste d'asilo da cittadini turchi arrivati alla Germania sono 7.700. A proposito, torniamo un attimo in Francia, perché dicevamo scossone politico, ha fatto notizia naturalmente già solo il fatto che Marine Le Pen fosse arrivata al ballottaggio, che comunque abbia ottenuto il 40% dei consensi, ma che soprattutto sia praticamente sparito il centrosinistra da questo scenario, perché definire Emmanuel Macron di centrosinistra è un po' una forzatura. Ricordiamo che ha una formazione economica molto liberale, è stato, ha lavorato anche per Rothschild, cosa che gli è stata più volte rinfacciata. E a questo punto Anne Hidalgo, che è il sindaco di Parigi ed è del Partito Socialista, ha deciso, insieme alle ministre socialiste Martine Aubry e Christiane Taubira e anche con altri esponenti della società civile, di lanciare Cita testualmente Le Monde, un grande movimento di innovazione per una democrazia europea ambientale e sociale. La nuova entità, per ora, non ambisce a essere un partito, è aperta a tutti gli umanisti che credono ancora all'azione e alle democrazie pronte a impegnarsi per la giustizia sociale. E qui infatti il problema è appunto che la preoccupazione anche che venga a mancare una forza di centrosinistra o di sinistra in grado comunque di bilanciare, gli altri partiti, gli altri movimenti e comunque di rappresentare, di dare quindi una rappresentanza più completa delle istanze dei francesi. A proposito di cambiamento, El País invece ha intervistato il presidente dell'Europarlamento, che è Antonio Tajani, che sapete ha preso il posto di Schulz. Martin Schulz si è dimesso da presidente del Parlamento europeo perché lui invece corre e sfida un'altra donna, la cancelliera Merkel, corre per le politiche tedesche, e quindi è stato appunto sostituito da Antonio Tajani, che per moltissimi anni è stato comunque parlamentare europeo. In questa intervista a El País, il quotidiano spagnolo, Antonio Tajani dice: l'Italia ha bisogno di cambiare, il centrodestra e il centrosinistra devono prendere nota di quanto ha fatto la Spagna, guardarsi nello specchio spagnolo testuale e fare riforme. Ed è sicuramente si dovrebbe ragionare, appunto, si dovrebbe effettivamente fare questo confronto con la Spagna, perché la Spagna partiva come noi ancora prima dello scoppio della crisi innescata dal crack di Lehman Brothers nel 2008 in America, partiva da una situazione con un forte bisogno di riforme strutturali. La crisi ha colpito duro, soprattutto dal punto di vista immobiliare, ma la Spagna si è ripresa, sta crescendo a ritmi molto diversi dai nostri, e il mercato del lavoro in particolare sta dando grandi soddisfazioni, anche se lì altro che Jobs Act, cioè sono state introdotte misure di flessibilità, di grandissima flessibilità, però i risultati ci sono. E da qui il parere di Antonio Tajani, che ricordiamo è in Italia, era un esponente di Forza Italia, quindi comunque un uomo appunto con idee di centrodestra. A proposito di partiti e di partiti che litigano al loro interno, altra cosa di cui abbiamo esperienza in Italia, sia con il PD sia in generale con la coalizione di centrodestra, il Telegraph scrive che il Labour, il partito appunto di sinistra della Gran Bretagna, dove c'è una cosa molto simile al bipartitismo, perché da una parte c'è il Labour in questo momento guidato da Corbyn e dall'altra ci sono i conservatori, i Tories guidati dal Premier Theresa May, ecco, il Labour, apprestandosi alle elezioni anticipate che saranno l'8 di giugno, rischia una storica scissione. Secondo il Telegraph, che è un quotidiano in realtà vicino al governo conservatore, ma che in questo articolo cita fonti del Labour, che in questo momento è il partito di opposizione, 100 deputati di ribelli sarebbero pronti a creare un gruppo chiamato i progressisti nel caso in cui non arrivassero le dimissioni del leader Jeremy Corbyn dopo una debacle della sinistra alle urne. Quindi, con un atteggiamento direi tipicamente di sinistra, si danno già per sconfitti e già si mettono a fare delle ipotesi su quello che succederà appunto in caso di sconfitta. Il Financial Times è tornato ad occuparsi di Italia, per restare in Gran Bretagna ma cambiare argomento, perché qui appunto non al loro interno ma al loro esterno guardano i giornalisti di questo quotidiano. Il sistema finanziario italiano, secondo Financial Times, rimane uno degli anelli deboli non risolti di un'economia europea che finalmente mostra segni di ripresa. Il riferimento è in particolare a quei crediti deteriorati, i famosi famigerati NPL, non performing loans, un eufemismo per dire appunto prestiti che non sono performanti, cioè denaro che non verrà probabilmente mai restituito. Le banche li hanno in bilancio, si sa quanti sono, e però sono una sorta di bomba a orologeria. Vi segnalo però, perché non tutto quello che succede in Italia viene criticato per fortuna, un articolo apparso sempre sull'Economist, sulla rivista in realtà, questa rivista trimestrale dell'Economist bellissima che si chiama 1843, 1843, che si dedica a quello che viene definito il richiamo della campagna, un fenomeno di cui si è parlato anche qui a Radio 24, si può fare, ma anche in altre occasioni, perché il dato è che nel mondo le zone rurali si stanno svuotando e la popolazione delle città aumenta. Il caso più eclatante naturalmente è la Cina. In Italia invece molti giovani combattono la crisi economica coltivando la terra. Ecco le loro storie. E è veramente, veramente interessante, perché ci sono casi che vengono da tutte le regioni e anche sorprendenti per noi, anche per noi, per esempio lo zafferano, che sappiamo è una cultura tipicamente per esempio abruzzese, in realtà alcuni giovani hanno deciso di coltivarlo con successo in Piemonte. Era però l'ultima segnalazione per oggi. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli e insomma sbizzarritevi in rete o nelle edicole a comprarli in originale e informiamoci sempre, apriamo le nostre finestre sul mondo.